e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Deborah, se stavi pensando di rispondere salute... No, non va bene. No, cara mia. Perché devo fare? No, perché pensa che secondo il codice delle buone maniere non sarebbe educato, perché per il galateo è chi sternutisce che deve chiedere scusa. Capisci? Ah, e chi gli sta intorno deve fare finta di niente, come se non fosse successo nulla. E poi la buona educazione dice, ma questo lo sappiamo tutti, che chi sternutisce deve ripararsi il naso con un fazzolettino, perché ti arriva sempre un po' così a bruciapelo, no, lo starnuto. Perché spara, lo starnuto fa una doccia pazzesca. Pensa che uno starnuto spedisce nell'aria 40.000 microparticelle di saliva a più di 160 km. Allora, quindi bam, un vero e proprio aerosol di virus influenzale. Un tema tra l'altro che è di strettissima attualità, visto che secondo i dati di Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità sono quasi 100.000 gli italiani che hanno già l'influenza. Naturalmente saranno le cugine dell'influenza, le forme parainfluenzali, ma comunque si starnutisce ugualmente. E sappiamo però che gli starnuti non sono tutti uguali e non tutti sono contagiosi. Allora oggi impareremo a riconoscere la natura dei diversi starnuti, che solo all'apparenza sembrano uguali. Oggi, proprio in occasione della giornata dedicata al naso ribelle, proveremo a farlo con un nostro esperto per raccontarci come sta il vostro naso. Numero verde a vostra disposizione, 800 024 0024. A proposito di naso, per non farvi prendere per il naso quando scegliete l'olio extravergine d'oliva, dopo la nostra diretta potrete trovare un approfondimento del nostro esperto, il dottor Luigi Caricato, sul nostro sito, che ci darà anche consigli, non per scegliere a naso, ma per scegliere oculatamente l'olio extravergine d'oliva. L'avete letto, no? Sulle pagine. Ieri che se ci ne sono. È parlato molto, infatti e noi siamo sull'attualità pronte. Brave. Guarda, eccoci qua. Anche i risparmiatori naturalmente qualche volta corrono il rischio di essere presi un po' per il naso. Ecco perché noi da tanti mesi stiamo portando avanti questa nostra bella iniziativa che si chiama Investire Informati. Oggi è giovedì e torna questa rubrica che ci aiuta a leggere e capire le notizie economiche e finanziarie, ma anche a conoscere gli strumenti e le modalità più adatte a noi per proteggere e investire in base alle nostre esigenze i denari pochini, purtroppo, che riusciamo a mettere da parte, perché insomma ancora le esigenze delle famiglie sono strattonate da tutte le parti. Oggi Nicoletta torna a farci lezione il nostro professore preferito della scuola di risparmio, Gianni Lupotto. Proprio lui. Ma viene qui in studio? No, purtroppo oggi no, quindi ci accontentiamo di lui al telefono, ma comunque commenteremo fra le altre cose intanto i risultati delle ultime aste dei titoli di Stato. Sono ancora i rendimenti negativi ieri successo ai bot ad un anno. Poi torneremo a parlare di quelli che già qualche settimana fa abbiamo ribattezzato investimenti sempre verdi. È stata una puntata di grande successo, per cui ci ritorniamo. Sono quegli investimenti capaci di darci un buon grado di affidabilità e sicurezza anche nei periodi più turbolenti dei mercati. Allora, è questo il criterio con cui avete investito o vorreste investire i vostri soldi? Quali dubbi avete? Fateci le vostre domande all'800 24 0024. Il focus di oggi sarà dedicato ad uno strumento particolare e gli ETF ad alto rendimento. Seguiteci con attenzione, perché poi vi proporremo il nostro domandone per premiare i più rapidi e preparati. Profetico, nonché magnetico. Geometrico. Allora parliamo di naso, naso chiuso, gocciolante, naso che prude, arrivano i soldi, naso che si secca, che sanguina, naso che non piace, che non sente. Sembra impossibile che questa piccola proboscide che madre natura ci ha regalato e piazzato lì nel bel mezzo della faccia riesca a darci tutti questi problemi, eppure ce la fa. E allora noi proveremo a convincerla con le buone, si intende, a comportarsi bene, a funzionare a dovere. Ci aiuterà oggi il professor Mario Mussi, primario di otorinolaringoiatria presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno professore, bentornato e grazie. Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Buongiorno. Allora, intanto sono già arrivati messaggi al 349-238-6666. Esatto. Lanciato il tema, subito i nostri ascoltatori intervengono per avere delle precisazioni. Professor Bussi, io ho, ho detto bisogna coprire quando si sternutisce, coprirsi con un fazzoletto il naso. Giovanni mi scrive, ma il naso o la bocca? Ma li sono vicini, no? Professore? Sì, l'emissione arriva dal via aerea, quindi è veramente, come avete detto poco fa, un tornado che esce, perché noi sviluppiamo una pressione pazzesca e con queste benedette goccioline che portano ognuna un bagaglio di virus. Vedi, il tornado lo ha definito. Perché lo starnuto è violento, molto più violento di un colpo di tosse, ma entrambi fanno un po' di danni. Ecco, allora, naso, coprite il naso, la bocca, insomma, mettiamoci il fazzoletto davanti e poi almeno ripariamo i vicini. E già un ascoltatore ci scrive: ogni tanto faccio circa 23-24 starnuti consecutivi, di che cosa significa? Ne parleremo naturalmente nel corso della trasmissione, sollecitati dalle vostre domande all'800 24 00 24. Prof, ci sono delle persone, e io sono tra queste, che hanno spesso il raffreddore, quindi imparano, anche se con un certo fastidio, a conviverci, ma si arriva ad un certo punto in cui la situazione diventa un po' pesante e allora è arrivato forse il momento di cercare di vederci un po' più chiaro. Allora proviamo a raccogliere qualche informazione in più, partiamo da alcune situazioni tipo, ci aiuta la nostra scheda e poi la commentiamo con il nostro esperto. Andiamo. Il raffreddore dura a lungo e ti sembra non passi mai? Quando ti soffi il naso respiri meglio o non provi alcun miglioramento? Senti la testa pesante e dolente, specie nella zona della fronte e degli occhi? Professor Bussi, ho bisogno del suo aiuto per contestualizzare questa batteria di sintomi. Insomma, in altre parole, perché sono così importanti? Intanto perché, piccola proboscide, mi sembra riduttivo, almeno per chi fa il mio mestiere, in realtà, certo, il naso è magico. Per voi il naso è naso. Dà la nostra immagine al mondo, il naso annusa il mondo, si relaziona col mondo, misura l'aria, filtra l'aria, ci difende da ciò che di nocivo entra nel naso, e quindi fa un'infinità di funzioni. È una struttura delicata che si guasta, bisogna averne cura perché si guasta. Dopodiché tutto ciò che c'è nell'aria di pericoloso entra nel naso, il naso ha dei fortissimi sistemi di difesa che possono guastarsi o possono essere imperfetti. A quel punto non funziona bene. Il naso ha delle grandi responsabilità, professore. Perché, il naso ha, se pensiamo, no? Cattura gli odori, li ferma, poi gli odori, i profumi diventano ricordi, la memoria olfattiva, parleremo anche di olfatto, perché quando il naso si chiude non sentiamo più, no? Gli odori non li catturiamo più. Insomma. Con l'olfatto comunichiamo noi i nostri profumi e odori al mondo, i nasi li percepiscono, quindi col naso si comunica. Dall'aspetto estetico alle sue funzioni, tutto serve alla comunicazione. Poi il naso filtra l'aria, umidifica l'aria, scalda l'aria, dosa l'aria, ma non sono mica piccole cose, poveretto. Anzi, tanto funzioni male, lo dobbiamo accettare. Allora, iniziamo a pensare quando il nostro naso si chiude, no? È troppo facile dare la colpa al raffreddore. Ci sono persone che hanno questo disturbo anche in tempi non sospetti. Insomma, professore, c'è naso chiuso e naso chiuso. Ci aiuta a fare una prima distinzione? La cosa che chiude il naso più spesso, parliamo di, tra virgolette, malattie, ovviamente raffreddore. Il raffreddore è la malattia più frequente che ci sia al mondo. È virale, c'è un'infinità di virus che lo causano ed è quello che avvertiamo nelle stagioni di passaggio, nelle stagioni fredde. È la malattia più diffusa del mondo, quindi i conti si fanno su miliardi di casi nuovi all'anno. Grazie a Dio parliamo di una malattia così banale, ma comunque fastidiosa, ci dimentichiamo al fastidio. Dopodiché tutto ciò che non dura i tempi in cui un virus ci aggredisce e ci liberiamo di quel virus, perché essendo un virus che possiamo combattere facilmente ce ne liberiamo in pochi giorni, tutto ciò che dura di più non è più raffreddore comune, non è più quella che si chiama corizza epidemica, che è poi il nome del raffreddore da rinovirus o da tanti virus parainfluenzali che possono dare l'influenza. Prendete 1000 persone a spasso e contate che ogni giorno 6 o 7 contraggono il raffreddore, quindi non parliamo di numeri piccoli. Quindi se il problema persiste bisogna orientarsi e individuare quale potrebbe essere la causa. Se il problema persiste, se le manifestazioni sono forti, bisogna pensare a qualcos'altro, cioè a qualche errore di nuovo nel sistema difensivo, che per esempio può aver aperto le porte a dei batteri, non più a dei virus, ma a una vera infezione da germi con una secrezione che non è più trasparente ma diventa colorata, con disturbi che possono diventare più seri. Oppure proprio ci può essere un errore difensivo per cui il naso è cronicamente sofferente, cronicamente arrabbiato, diciamo una parola di questo tipo. Ci piace. E allora vediamo che cosa succede. Ma professore, noi dobbiamo dare la linea alle informazioni sul traffico. Intanto voglio anticipare una domanda di un nostro ascoltatore che ci scrive: il mio naso funziona benissimo, ma sia io che il mio compagno, quindi al mattino, ci svegliamo con il raffreddore che poi nell'arco della giornata passa. Anch'io mi ritrovo in questa condizione. Raccontateci un po' come funziona il vostro naso, che disturbi vi dà, se invece funziona benissimo. 800 24 00 24. Il professor Bussi rimane con noi nella prima parte di Cuore Denari, pronto a rispondere alle vostre domande. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Oh naso mio, come parlar male d'una cosa naturale? Quotidianamente c'è chi mi... Siamo tornati insieme per parlare del nostro naso, che può funzionare alla perfezione, ma a volte può tapparsi da entrambe le narici, da una sola, gocciolare, il naso starnutisce, insomma fa il suo lavoro. Ne parliamo con il professor Mario Bussi, ed è un lavoro, quello che fa il nostro naso, molto molto importante. Professore, vorrei iniziare a leggere, per così sollecitare i nostri ascoltatori a intervenire, alcuni messaggi, e poi do subito la parola a Monica e a Stefano. Allora, soffro da raffreddore e da stanchezza. Al termine di giornate particolarmente intense il naso mi si chiude, gocciola e starnutisco. Professore, esiste il raffreddore da stanchezza? Potrebbe essere lo stress, l'accumulo delle tensioni, le giornate faticose a innescare questo problema? Tutto ciò che ci stressa modifica leggermente le difese, sia chiaro, tutte le disfunzioni che non sono anatomiche, cioè non sono legate al fatto che il naso è fatto male, sono legate a disturbi nel modo che ha il naso di difendersi e difenderci. Lo stress modifica un po' le difese, però è probabile che questo ascoltatore in realtà non lo debba allo stress, ma forse a qualche altro problema. Monica, buongiorno, ci chiama da Torino e poi restiamo poi a Milano con Stefano. Monica, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno professore. Eccoci buongiorno. Qua, ci racconti di lui, del suo naso, Monica. Allora, premesso che il mio naso funziona benissimo, non ho quasi mai raffreddore né influenza eccetera, però ho questa cosa curiosa che mi succede tutte le mattine. Faccio colazione, una bella abbondante colazione, appena mi alzo dal tavolo 7 starnuti, tutte le mattine, dai 6 ai 7 diciamo. È visto così. Che ho il professore al telefono. E certo, noi vogliamo approfittare del professor Bussi. Professore, ecco. Il buongiorno si vede dal mattino e il naso di Monica si vede che saluta così. Sì, sono tante le cose che destabilizzano il naso. Intanto nel mettersi da coricati e in piedi cambiano molto le cose, perché il naso è più gonfio quando siamo coricati e si sgonfia, ma c'è un passaggio proprio nel metterci in posizione retta. E poi ci sono probabilmente cambiamenti di stimoli fisici, cioè se è più coperti, meno coperti, c'è più luce, meno luce, sono tutte cose in grado di destabilizzare la funzione nasale. Il naso si irrita, gonfia un po', produce muco e ci porta fino a starnutire. Non è una cosa che richieda terapia, ma è una cosa che caratterizza la nostra ascoltatrice, dalla quale potrà difendersi solo con piccoli spray locali. Stefano, buongiorno, ci chiama da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Si lamenti pure, Stefano. Il professor Bussi ci ascolta. Ma lamentiamoci. Io una cosa piuttosto singolare, magari anche una cosa stupida. Mi capita quando vado a sciare che in montagna, in alta montagna, inizia praticamente a colarmi l'acqua dal naso. Sì. E io non capisco da che cosa è dovuto, quindi mi devo attrezzare di fazzoletti di carta in continuazione. Sì, e per questo fare, sì, perché non sa, di acqua. Immagino che sia abbastanza d'impiccio, no? Perché esatto, sei lì che poi ti cola il naso. Professor Bussi, come si fa a fermare il naso gocciolante? Quanti anni ha questo ascoltatore? Nel senso anche che l'età, perché conta? 49. Ecco, il disturbo probabilmente non ce l'aveva a 25, rimane un uomo giovane, ma certamente c'è una fascia di età in cui questo disturbo c'è un po' meno. col passare del tempo le aumenterà, perché è un tipo di debolezza che ha il naso nei confronti della bassa temperatura, non è tanto un problema di altitudine ma di temperatura, diventa più secernente perché subisce malvolentieri il gradiente termico, cioè lo sbalzo verso le temperature basse. E quindi che cosa si può fare? Copertine per il naso non ce ne sono, cappucce da naso neanche? Non è affatto un disturbo poco comune, è possibile mettere uno spray antistaminico prima di andare diciamo sulle piste o comunque a star fuori in alta montagna, ma è tanto più rapido soffiarsi il naso, non è, e guardi, è un fenomeno da ritenersi fisiologico, non è un fenomeno da ritenersi pericoloso o malato, diciamo. Professore, insomma, gli sternuti non sono tutti uguali, se non dipendono dal raffreddore possono essere quindi di altra natura, ma ad esempio potrebbero essere di natura allergica. Prima di andare a fare gli esami, lei può aiutarci a riconoscere una rinite allergica da una rinite influenzale o da quella che si chiama vasomotoria? Che caratteristiche hanno? Che cosa le differenzia? La vasomotoria non è che si differenzi nella sostanza dall'allergica. Semplicemente l'allergica è una rinite nella quale a un certo punto si scopre che è il nemico, sì. E i nemici ne abbiamo tantissimi in giro, li conoscete, i pollini, la polvere, peli di animali, c'è un po' di tutto, muffe, quindi il sintomo è il fatto che di solito il portatore si rende conto che ci sono situazioni nelle quali il naso ha i sintomi di un raffreddore, ma questo succede troppo spesso, per alcuni è perenne, per altri è stagionale, è quello che chiamiamo raffreddore da fieno, tanto per fare un esempio. Sì. Mi trovo vicino a un gatto, mi prudono gli occhi, naso, gocciole, eccetera, e la ripetitività del fenomeno al di fuori da ogni episodio da raffreddamento, in cui prevale però il prurito, la lacrimazione, cioè è una sintomatologia non febbrile ma proprio locale molto intensa, il naso da stropicciare che cola molto e non necessariamente chiuso, però non necessariamente ostruito, e la mucosa interna del naso che reagisce malamente, si gonfia, quello che si gonfia lo chiamiamo turbinati. Sì. Che è il problema di Elia, perché ci scrive che da circa un anno ha costantemente il naso chiuso, almeno al 50%, e l'otorino dice che è un problema di turbinati, gonfi alternativamente, che l'unica soluzione è l'intervento. Ma si può fare altro prima di intervenire? Professore, sicuramente adesso gli interventi sono meno invasivi, noi abbiamo solo un minuto prima del GR, quindi se vuole anticipare magari... In medicina si fa sempre di tutto prima di operare. La chirurgia oggi dei turbinati è banalissima, questo va detto. Prima si prova una terapia medica, poi si accede volendo a chirurgia che è molto semplificata e non aggressiva rispetto al passato. Ne parliamo subito dopo il GR, continuate a chiamarci e a scriverci, raccontateci del vostro naso, il professor Bussi vi darà le sue indicazioni. Ti dico già che c'è un ascoltatore che si definisce lo starnutatore professionista da quando è nato. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. E denari. Voglio il tuo profumo. Voglio il tuo profumo. Seconda parte di Cuore Denari, stiamo occupandoci del nostro naso, sì, Deborah, che esatto. A volte può non funzionare bene, può tapparsi, chiudersi, gocciolare, starnutire. Cerchiamo di dare un nome, una causa al nostro esternuti. Ci aiuta il professor Bussi, primario di otorinolaringoiatria presso il San Raffaele di Milano. Professore, prima del GR ci siamo lasciati con un messaggio forte e chiaro: gli interventi sono sempre meno invasivi. Subito i nostri ascoltatori ascoltatori ci hanno scritto perché vogliono saperne di più. A volte, no, la terapia non è sufficiente, quindi occorre intervenire. Ci siamo lasciati con l'ascoltatore che, a cui il medico curante ha suggerito un intervento ai turbinati. Professore. Magari andiamo per gradi. Le cose più semplici le fa la persona stessa. Ci si copre perché il freddo irrita il naso, di tutti i rimedi della nonna, e si lava il naso perché l'aria oggi è sporca, ci si lava con soluzioni saline, 9 grammi di itro, le vendono le farmacie, i supermercati, tutti vendono soluzioni saline per lavare il naso e funzionano, non c'è bisogno del medico, c'è bisogno di buon senso e più si usa meglio è. Quindi poi si arriva ai rimedi medici locali e ci sono gli spray, non bisogna aver paura dell'uso persino del cortisone quando è locale, non è pericoloso, ci sono antistaminici, ci sono tanti piccoli prodotti nasali che non hanno tossicità in effetti. E poi si arriva alla chirurgia. La chirurgia oggi è semplice perché abbiamo tantissime tecnologie, lavoriamo completamente in endoscopia, quindi guardando con delle telecamere dove andiamo. Non è più dolorosa perché non usiamo tamponi nella chirurgia nasale, quindi non c'è l'incubo di avere il naso blindato e dolente, si riducono queste strutture che tengono il naso gonfio, cioè turbinati, si rimodellano le anomalie del setto, cioè del muro che divide il nostro naso in due gallerie, si rimodella l'aspetto del naso, tutto è diventato molto semplificato perché la tecnologia ha cambiato non solo la nostra chirurgia ma tutte. Quindi si interviene sui turbinati e questo intervento assicura poi un turbinato sano, felice, funzionante per il resto della vita o può darci ancora dei problemi, professore? No, ne può ancora dare, ancora una volta ci aiuteremo con terapie semplici, ben sapendo che ove mai dovesse rigonfiare, questo dipende anche da tutta una serie di fattori con cui non vi sto ad annoiare, ma insomma può anche succedere, ricordo che è una seduta di un minuto e mezzo in anestesia locale, fatto, abbiamo laser, abbiamo radiofrequenze, ci sono tante tecnologie oggi che risolvono e quasi una medicazione, quindi se anche dopo 6-7 anni uno dovesse ripetere questo gesto, voglio dire, è accettabile. Apriamo e chiudiamo poi rapidamente, dedicheremo una puntata, una parentesi sui polipi nasali. Quali sono i segnali che ci devono far capire che dietro ai segnali che ci manda il nostro naso potrebbe nascondersi un problema di polipi nasali? Ah, se il rivestimento gonfia a dismisura, fa delle vere bolle, delle vesciche dentro il naso, l'ostruzione non è più vado e vengo, c'è sempre. Il naso è sempre più chiuso, se ne va l'olfatto, se ne va il gusto con l'olfatto, cola il naso, ma l'ostruzione è ossessiva, bilaterale e persistente, oltre che progressiva. Quello è un segno classico, poi se ci mal di testa, naturalmente la diagnosi è specialistica. Però questa è la batteria di sintomi che possono configurare la presenza di una poliposi nasale. La poliposi si identifica con questi sintomi ed è un tipo particolare di sinusite, una sofferenza delle stanze che ci sono intorno al naso, le cui pareti gonfiano fino a invadere il naso, riempire il naso e ce lo chiudono sempre di più. E in questi la terapia casi è facile, poi tutto facile, di nuovo esiste l'ossessione e che dipende da un problema immunitario, ce ne sono tante cause ma è un modo sbagliato che ha il naso di difendersi, quindi grandi terapie sia locali che generali, lavare il naso con soluzioni saline e poi si arriva fino a tecnologie che eradicano la poliposi, anche lì più o meno definitivamente, ma oggi senza dolore, senza paura rispetto al passato. Professor Bussi, io la ringrazio per essere stato con noi anche per questi messaggi rassicuranti. Certo. Insomma, il nostro naso cade sempre in buone mani. Esatto. Siamo molto meno cattivi di una volta. Finalmente, non professore. È colpa vostra che vi disegnavano così, come diceva Jessica Rabbit. Grazie, professore. Grazie. Buona giornata a lei, buona giornata a tutti. E oggi è una giornata un po' speciale per il nostro naso, è la giornata del naso ribelle. Ne hai sentito parlare? No, perché ma il naso ne può fare di tutti i colori, ce lo facciamo spiegare. Eh sì, si gonfia dentro fuori, insomma, a fare piccoli brufoletti come raccontano, delle feritine, le ulcerine, ne combina di tutti i colori. Allora, abbiamo il piacere di avere in linea con noi il dottor Massimo Landi, che è pediatra, presidente dell'Accademia Italiana di Citologia Nasale, che organizza proprio la giornata del naso ribelle. Buongiorno, dottor Landi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questo naso ne fa di ogni colore, diventa anche ribelle. Quali sono le caratteristiche del naso ribelle? Insomma, che fa un po' quello che vuole. Sì, beh, ho sentito quello che diceva il professor Bussi, in effetti è inquadrabile in questa sintomatologia di ostruzione persistente. Diciamo che con il termine di naso ribelle andiamo a prendere tutte quelle riniti che una volta venivano un po' classificate come vasomotorie, che era un sistema molto elegante per classificare una cosa di cui non, sostanzialmente bravo, non sapevate capito. Nulla, esatto. Ecco, perché anche voi no? Ogni no, tanto certo. Ecco. Abbiamo dei modi eleganti però ormai vi abbiamo sgamato nostre... dottor Landi, ormai vi abbiamo, come si dice, sgamato anche noi, quindi, vabbè. Invece... E quindi invece col naso ribelle, con la giornata del naso ribelle noi andiamo proprio a stanare quelle che sono un capitolo un po' a parte delle cosiddette riniti vasomotorie, che oggi sarebbe più corretto inquadrare come riniti cellulari, che in parole molto povere sono quelle che spesso non riconoscono una causa allergica, cioè sono quelle veramente in cui una volta si diceva lei non è allergico, quindi è vasomotorio, è idiopatico, criptogenetico, insomma ci inventevamo di tutto. Se lo tenga. Soprattutto se lo tenga. E invece adesso con questa metodica estremamente semplice, assolutamente non invasiva, che può essere fatta a qualsiasi età, della citologia nasale, noi possiamo andare a vedere qual è la cellula infiammatoria presente nel nostro naso. Perché questo? Perché ho sentito parlare prima di poliposi, di ipertrofia dei turbinati. Allora, un'infiammazione persistente come quella che può avvenire in queste situazioni citologiche particolari è una situazione che inevitabilmente predispone a un turbinato ipertrofico e che in molti casi può portare alla poliposi nasale. Quindi, se posso dare un consiglio, questo esame citologico deve entrare nel bagaglio diagnostico soprattutto prima di andare in sala operatoria. Perché questo? Perché giustamente si è sentito parlare di possibili recidive dell'ipertrofia dei turbinati, che sappiamo essere, per carità, anche a lungo termine, ma la poliposi nasale invece recidiva frequentemente. Allora qual è il problema? È andare a vedere che questo paziente non abbia effettivamente una di queste riniti particolari, i cui nomi più famosi sono la Nares e la Naresma, che richiedono terapie mediche prolungate, ma che soprattutto se ben trattate in qualche modo possono contenere le recidive e possono evitare anche una progressione verso la poliposi nasale. Quindi prevenire è una doppia prevenzione questa. Sì. Dottore, lei dice un esame molto semplice. Sì, estremamente semplice. Ecco, tra l'altro oggi andando sul sito che noi abbiamo messo già ieri sulla nostra pagina, è possibile effettuare questo esame gratuitamente in molti centri. Che cosa ci fate se veniamo Deborah e io? Ci pizzicate un naso? No. L'esame viene tecnicamente fatto con un piccolissimo cucchiaietto di plastica che viene passato molto delicatamente sul turbinato, sulla coda del turbinato inferiore. Quindi dopodiché infilate questo cucchiaino nel naso. Un centimetro, neanche un centimetro. Dopodiché il muco che viene raccolto inevitabilmente, poi appena si tocca il turbinato, nella stragrande maggioranza dei casi, tutti i pazienti, ma questo tipo di paziente in particolare, ha immediatamente una secrezione nasale, quindi noi raccogliamo questo muco che viene strisciato delicatamente sul vetrino, il vetrino viene colorato e guardato al microscopio, dove si va a vedere se sono presenti alcune cellule tipiche di alcune infiammazioni. A volte, per carità, in realtà poi il citologico nasale è normale, non è che sia sempre così, però se il paziente è molto selezionato, cioè questo tipo di paziente che ha fatto più volte test allergologici, che sono rigorosamente negativi, che magari ha già avuto una poliposi nasale, questo paziente quasi sicuramente ha una di queste patologie. Che poi potrebbe essere anche lui un naso ribelle, un naso ribelle. Un naso ribelle vero, un naso ribelle TOC, come si suol dire, certamente. Poi le terapie, per carità, sappiamo che i nostri farmaci sono più o meno sempre gli stessi, perché abbiamo gli antistaminici, abbiamo i cortisonici nasali, come giustamente ha detto prima il professor Bussi, non bisogna assolutamente avere paura di questi cortisonici topici, perché l'assorbimento sistemico è pressoché inesistente, ma soprattutto questo tipo di paziente che respira male invece spesso si lascia andare a vasocostrittori e ad altri prodotti che invece possono poi dare delle riniti medicamentose che sono assolutamente peggio di qualsiasi altra terapia. Quindi non aver paura del cortisone, che deve essere usato in questo tipo di terapie, e poi per carità in qualche caso si può arrivare anche alla terapia chirurgica sapendo però di avere questo tipo di disturbo. Quindi è anche quindi come è, dire, un, dare è un esame esatto, è un esame che permette al medico di fare una diagnosi una più diagnosi, accurata e soprattutto con tempi più ridotti, giusto? Assolutamente sì, cioè il tempo di esecuzione dell'esame è sotto il minuto, ecco. Va bene, allora grazie dottor Landi, ricordiamo pediatra e presidente dell'Accademia Italiana di Citologia Nasale, per essere stato con noi. Lei ha un naso ribelle? No. Sono ribelle di mio. Grazie, buona giornata. Buona anche giornata. Voi, grazie, buona giornata. E allora adesso andiamo un po' ai nostri risparmiatori che ogni certo. tanto si ribellano quando i loro piccoli grandi investimenti non rendono in maniera soddisfacente. Il loro moto di ribellione lo esprimono naturalmente a Radio 24, a Cuore Denari, e noi proprio per questi ascoltatori che cosa abbiamo raccogliamo fatto? Raccogliamo loro esatto. naturalmente le loro richieste e abbiamo fatto. E abbiamo creato Investire Informati. È giovedì, è tempo di ritornare sui banchi di scuola, noi siamo buone per cui facciamo una lezione a settimana, per cui insomma più elastiche di così, più ribelli di così, a scuola una volta a settimana, quale scolaretto non vorrebbe un impegno di questo tipo, ma soprattutto quale scolaretto non vorrebbe un professore come quello che abbiamo noi. Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, titolare dello studio di consulenza finanziaria indipendente Lupotto e Partners, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Allora, come sempre i nostri ascoltatori hanno a loro totale disposizione il nostro numero verde che è l'800 24 00 24. Intanto vi chiediamo se siete alla ricerca di qualche consiglio per investire il vostro piccolo gruzzoletto, magari alla luce anche di quello che sta accadendo sui mercati state cercando di capire se è il caso di cambiare un pochino strategia. O un'altra domanda che posso farvi è se avete letto le pagine economiche dei giornali di questi giorni e qualcosa non vi è del tutto chiaro. Se non volete usare il numero verde potete anche scriverci al 349-238-6666. Noi oggi parleremo di uno strumento particolare di investimento, l'ETF, titoli appunto ad alto rendimento, ma prima di parlare di questo tema specifico non possiamo certo trascurare l'attualità finanziaria, un altro ingrediente importante di Investire Informati. Allora, perché vogliamo parlare anche di attualità? Perché ci stanno ancora incuriosendo l'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato. Ieri è stata la volta di un'altra asta del Tesoro italiano che ha collocato 6 miliardi di euro di bot semestrali e il rendimento per questa scadenza è stato per la prima volta negativo, meno 0,03%. Era già accaduto per altri titoli, per altre aste, per altre scadenze nelle ultime settimane. Il 27 ottobre per esempio il Tesoro ha collocato 1.750 milioni di euro di CTZ a 2 anni con un rendimento negativo per lo 0,023%. Il 28 ottobre era stata la volta di 6 miliardi di bot semestrali con un rendimento che è sceso allo zero, che è andato in negativo per lo 0,055%. Insomma, Lupotto ci aiuta a decifrare queste notizie perché i risparmiatori sono certamente disorientati. È vero che questi rendimenti finiscono sotto zero perché queste aste sono molto frequentate, c'è una grande ricerca di obbligazioni governative italiane e però non è proprio esattamente una buona notizia per tutti. Diciamo non è una notizia particolarmente stimolante per il risparmiatore che cerca dei rendimenti sicuri seppur bassi, perché quando i rendimenti si avvicinano allo zero, addirittura vanno sotto, chiaramente non diventa più consigliabile investire in questo tipo di strumenti almeno momentaneamente, anzi direi di più, direi che è proprio anche un segnale un po' di vendita, no? Chi fosse detentore di grandi quantità di BTP in questo momento può utilmente monetizzare una parte di questi vendendoli in alto profitto. Allora, tra l'altro oggi il Tesoro prosegue la sua tornata di aste con un collocamento di BTP, quindi di titoli pluriennali, a 3,7 e ce n'è persino una scadenza a 25 anni. Stamattina ragionavamo in redazione, dottor Lupotto, che non è che sia molto frequente un'operazione su titoli a 25 anni. Io ho sentito molte volte parlare del BTP trentennale, oltre che di quella a 10 anni, forse a 15, ma a 25 anni è una scadenza abbastanza originale, curiosa. sì, probabilmente si tratta di una riapertura di un trentennale che periodicamente viene riaperto. Comunque questo rientra nella logica del tesoro che sta rimodulando la scadenza del debito italiano, approfitta dei tassi bassi per allungare la scadenza. L'operazione di oggi punta a raccogliere un massimo di 5,5 miliardi di euro e dopo fra un po' appunto vedremo quale sarà l'esito di questa operazione. Al momento ancora dalle agenzie non vedo nessun tipo di risultato. Allora, detto questo, Lupotto, nell'ultimo appuntamento di Investire Informati in cui l'abbiamo ospitata ci siamo dedicati in modo particolare ai consigli per i nostri ascoltatori che si stanno interrogando su come naturalmente scegliere su come investire al meglio i propri risparmi. Allora, avevamo individuato una particolare categoria di investimento che era quella dei sempreverdi. Ci siamo chiesti come deve comportarsi chi vede come priorità la sicurezza del proprio investimento ancor prima del rendimento allettante, e sappiamo che per molte famiglie questo aspetto viene ben prima appunto della redditività dell'investimento stesso. Oggi parliamo di obbligazioni ad alto rendimento. Perché ne parliamo proprio oggi? Proprio perché i titoli di Stato non rendono quasi più nulla? Esatto, perché ci sono i rendimenti di titoli di Stato a zero o sotto zero. Le obbligazioni di tipo corporate hanno anche esse dei rendimenti molto bassi, e quindi le cosiddette obbligazioni a yield, che tecnicamente sono quelle con un rating inferiore alla tripla B meno, hanno un certo appeal nei confronti dei risparmiatori, quindi bisogna esaminarle per capirne vantaggi ma anche rischi. Esattamente, anche perché tutte le volte che noi descriviamo il panorama degli investimenti ad alto rendimento, facciamo sempre una raccomandazione molto precisa ai nostri ascoltatori: ad alto rendimento corrisponde anche un altrettanto alto rischio. Quindi strumenti sempre verdi, ma un po' meno tranquilli, dottor Lupotto? Sì, questi strumenti offrono maggiori rendimenti e di conseguenza i rischi sono maggiori di quelli che si corrono con le obbligazioni governative o corporate, però i rischi sono mitigabili nel modo che vedremo fra poco. Certo, senta, ma generalmente le obbligazioni ad alto rendimento, almeno per quello che ne so io, sono rivolte ad una platea di risparmiatori che hanno delle disponibilità finanziarie piuttosto consistenti, perché il taglio minimo di investimento per un prodotto di questo tipo è molto alto, si va oltre 50.000 euro, forse più frequentemente oltre i 100.000 euro. Per un piccolo risparmiatore questi strumenti sono abbordabili o no? C'è un modo alternativo di fare una sottoscrizione diretta? Ecco. Sì, le singole obbligazioni sono irraggiungibili molto spesso, o comunque sconsigliabili perché poco diversificabili. E allora entrano in gioco i cosiddetti ETF, che sono degli strumenti specializzati su tanti comparti, e ce ne sono di specializzati sul comparto obbligazionario a yield. Oggi esaminiamo gli ETF specializzati in questo comparto, denominati in valuta euro. Ecco, quindi allora ribadiamo lo strumento del quale ci occupiamo oggi, perché fra un po' io devo andare a raccontare la giornata di borsa, quindi devo rinviare l'appuntamento dopo le 11.30. Oggi parliamo di ETF specializzati sul comparto obbligazionario a yield, giusto dottor Lupotto? Esattamente, denominati in valuta euro. Benissimo, tra l'altro sono quotati sulla borsa italiana questi strumenti, è vero? Ce ne sono di quotati sulla borsa italiana, ce ne sono per l'esattezza 7 strumenti, sono differenti fra di loro, quindi non tutti, ci sono differenze anche rilevanti che dobbiamo magari un attimo esaminare. Senz'altro, lo faremo tra poco, poi ci sono anche degli ascoltatori già pronti ad intervenire. Abbiamo Raffaele che ci chiama da Milano e Pierpaolo dalla provincia di Pavia. Ma li rinviamo subito dopo. Sì. Veloci, veloci. Guarda, faccio una borsa telegrafica proprio per accontentarli in tempi rapidissimi. A tra poco. E denari. Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado con fedele. ETF ad alto rendimento, ne stiamo parlando questa mattina di Investire Informati. Con noi c'è sempre il nostro Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente. Allora, oggi parliamo appunto di questa speciale categoria di investimenti che abbiamo ribattezzato Evergreen, sempre verdi, che sono quelli che in qualche maniera proteggono un po' gli investitori dagli scossoni di mercato. Abbiamo analizzato in una puntata precedente alcune azioni particolari di alcune società quotate in borsa, quelle sulle quali bisogna stare per avere una discreta soddisfazione almeno una quindicina d'anni. Oggi parliamo di ETF ad alto rendimento, ETF che investono in obbligazioni ad alto rendimento per essere specifici. Sulla borsa italiana ne sono quotati 7 di questi strumenti, ma naturalmente anche in questo caso non sono per tutti, quindi dobbiamo tenere ben presenti le dovute raccomandazioni che ci farà Lupotto per investire nella modalità corretta su questi appunto strumenti di risparmio. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Chiedo ancora un minutino di pazienza a Raffaele Pierpaolo per chiedere a Lupotto se possiamo anche questi definirli strumenti sempre verdi e perché. Anzitutto ricordiamo che cos'è un ETF. Esatto, diciamo, che mi pare proprio la domanda alla Nicoletta, ma non perché io so, no, naturalmente, è però è quella che ci aiuta. Diciamo, è uno strumento collettivo del risparmio, simile ad un fondo, ok? E quindi io, comprando una quota di un ETF, è come se comprassi tutte le componenti di questo fondo. Nella fattispecie, questi ETF investono in obbligazioni ad alto rendimento, quindi se io compro una quota di un fondo, è come se comprassi tanti piccoli pezzettini delle N obbligazioni facenti parte dell'indice. Senta, per essere proprio molto molto chiari, prendiamone uno dei 7 quotati in borsa italiana, ci spiega che cosa c'è dentro, tanto per capire che cosa replicano esattamente questi indici. Certo, prendiamo uno qualsiasi, quello di, per esempio, Spider di State Street, che replica un indice Barclays di 360 obbligazioni ad alto rendimento. Quindi all'interno di questo ETF ci sono dentro 360 obbligazioni a yield che periodicamente pagano cedola e vanno secondo le leggi di mercato dei prezzi. È uno strumento quindi intanto molto diversificato, quindi tranquillizzo Nicoletta che vuole sempre assolutamente capire se c'è un'adeguata diversificazione nei nostri investimenti. E io che una parola ho imparato, è questa. No, una oggi regola. Anche ETF. No, ma è molto interessante. Quindi quanti ce ne sono dentro? 360. E come facciamo a capire se è, se è un sempreverde o no? Beh, dobbiamo vederne un po' l'andamento nel tempo ed esaminarne, diciamo, le caratteristiche. Certo, questo strumento qua per esempio che storia ha, se lei lo ha analizzato nel dettaglio, dottor Lupotto? Questi indici sottostanti hanno tutta una storia di almeno 10 anni, ecco. Quindi è sufficientemente ampia, e diciamo le componenti della performance di questi strumenti sono alcune, no? Una chiaramente è il flusso cedolare che le obbligazioni versano all'interno di questo fondo. L'altra componente è il rischio, quindi è il rischio di credito delle singole componenti delle obbligazioni. Il rischio è un valore che si muove ciclicamente e quindi ha degli alti e dei bassi nel tempo, ma ritorna sostanzialmente sempre alla stessa posizione. Allora, dottor Lupotto, la deve interrompere perché noi vorremmo ripristinare con lei la telefonata, perché dal punto di vista qualitativo non ci soddisfa molto. Invece, siccome vogliamo proprio prendere per oro colato tutto quello che lei ci dice, prendiamo dalle sue labbra. Allora adesso ricomponiamo al volo il numero. Nel frattempo io prendo la domanda di Raffaele da Milano. Se in questo frangente Lupotto non la sente, io me la segno tutta, così almeno gliela riesco a ribadire. Raffaele, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno. Ci dica. La mia domanda era, dato che in questo momento abbiamo il petrolio molto basso, no? Sarebbe il caso di investire in ETF invece di obbligazioni sul petrolio? E dopo volevo sapere se questo tipo di ETF sul petrolio ci sono scadenze oppure meno. Bisogna vedere il petrolio in che senso, se i futures sulle quotazioni, in azioni petrolifere, in azioni di società che estraggono, quindi ci sono tante modalità, evidentemente lei ne ha individuata una in particolare, Raffaele, proprio parla di petrolio in senso generale perché il prezzo è basso. Sì, un ETF sì, è una specie di... Allora Raffaele, però bisogna documentarsi bene sull'investimento, se non ha le idee chiare mi raccomando non faccia delle sciocchezze, ecco. Raffaele è un po' rimandato. Raffaele, sì, aspetti lì, però insomma abbiamo capito che insomma uno è attratto dalle quotazioni del petrolio che sono molto basse, quindi non potranno che ricrescere, dice lui, allora adesso punto su uno strumento, esatto, ma io così faccio un'ipotesi, una congettura di quello che Raffaele possa aver pensato. Lupotto è con noi? Certamente, sono qua. Molto meglio, ottimo. Forte e chiaro. Allora, l'ha sentita la considerazione di Raffaele? Purtroppo no, perché era caduta la linea. Comunque, ecco, le dico già che Deborah l'ha sgridato, eh. E io allora ho rimandato, perché vorrei far parte anch'io, no, di questa commissione d'esame. Ecco. No, Raffaele ha fatto questo ragionamento. Lui dice le quotazioni del petrolio sono molto basse adesso e c'è questo grosso problema di crollo dei prezzi delle materie prime, insomma, dovuto al rallentamento dell'economia cinese e non solo. Allora lui dice: posso approfittare attraverso un ETF di queste quotazioni così basse del petrolio? Potrebbe essere uno strumento giusto magari per scommettere su un rialzo dei prezzi? Ho ipotizzato, perché lui non aveva le idee molto chiare. Un ETF può essere composto da società petrolifere, non so, da derivati sul petrolio, da tante altre cose. Quindi sì. Lupotto, l'approccio giusto su questo segmento così specifico? Molta attenzione, perché in realtà ci sono strumenti che si chiamano ETC, che sono simili agli ETF ma replicano l'andamento della commodity fisica, quindi del petrolio. Questi strumenti di solito però, per come sono composti appunto da derivati, tendono a perdere valore se il prezzo del petrolio in questo caso non sale rapidamente, cioè se il prezzo del petrolio rimane fermo per un po', lo strumento perde valore, quindi bisogna fare attenzione a che cosa si compra e conoscerlo molto bene. Esatto, non prendere lucciole per lanterne, insomma. Esatto. ETC, ETF. Esatto. Allora, ritornando agli ETF obbligazionari ad alto rendimento quotati sulla borsa italiana, peraltro ne ha citato uno, il dottor Lupotto, Spider, che contiene al suo interno ben 360 obbligazioni. Non è neanche il più diversificato, perché ce ne sono altri due che ne hanno dentro ben oltre 458, per cui la Quindi, diversificazione... Quindi, sono diversificati, più sono convenienti? Dottor Lupotto. Più sono diversificati, meno sono rischiosi. Non necessariamente sono più convenienti in termini di performance, però la limitazione del rischio è un grande vantaggio, e certo, quindi di solito noi li preferiamo. Senta Lupotto, c'è un taglio di investimento minimo per appunto puntare su questi strumenti quotati? In realtà è molto basso, perché una quota di questi ETF è la quota degli ETF, quota circa 100 euro, 100, 120, 130. E siamo... il taglio minimo è bassissimo. Certo, quant'è suggeribile secondo lei in una diversificazione ideale? Quanto è il caso di punto? Chiaramente dipende. Questo va valutato da ascoltatore, da risparmiatore. Certamente è suggeribile una quota non elevatissima, proprio per il maggior rischio rispetto alle obbligazioni tradizionali, ma un 5-10% ci può stare. Allora, abbiamo detto appunto che ce ne sono un tot quotati in borsa italiana, senza soffermarci sul loro numero. Mettiamo a fuoco, dottor Lupotto, gli elementi che li differenziano, no? Li ha studiati tutti attentamente, sì. E quindi sono elementi che probabilmente potranno guidare le nostre scelte in base alle esigenze che abbiamo, le esigenze di risparmio, di investimento, obiettivi di vita e quant'altro. Allora, che cosa li caratterizza? La prima, più importante per il risparmiatore, è il fatto che questi strumenti paghino o meno una cedola periodica. 3 dei 7 sono a distribuzione, quindi pagano cedola, e sono lo Spider, che abbiamo già nominato, l'iShares Euro Yield, che paga la cedola semestrale, e il Lyxor, che paga la cedola annuale. Chi vuole un flusso periodico per integrare il proprio tenore di vita li può preferire. Se non si necessita di un flusso periodico, ci si può rivolgere agli altri, che diciamo sono più efficienti, perché reinvestono direttamente le cedole, e sono la Mundi e il DBX Tracker. L'altra differenza, un'altra delle differenze, sì, un altro degli elementi che differenziano. È quello che abbiamo già in parte citato, è l'indice che viene replicato. Ci sono degli indici molto popolosi, quelli che abbiamo già citato, 400, 300 obbligazioni, altri più ridotti, 30 o 50. Noi di solito preferiamo quelli con indici più diversificati, perché hanno, diciamo, una miglior resistenza nel caso di default dei sottostanti. Certo. Un'ultima differenza abbastanza... È rilevante, perché non è sempre comprensibile, peraltro, su questo punto mi soffermo io, perché devo dirle che anche in passato, avendo fatto tante trasmissioni sul tema ETF, io veramente ancora la differenza fra l'ETF fisico e quello sintetico, se qualcuno me la chiedesse, io proprio non sono in grado di ribadirla. Dottor Lupotto, anch'io mi affido a lei stamattina. Che carino. Allora, l'ETF a replica fisica sostanzialmente ha al suo interno le obbligazioni facenti parte dell'indice, ok? facenti parte dell'indice che l'ETF va a replicare. Poi facciamo un esempio pratico così almeno. Esatto, quindi io comprando diciamo una quota di un ETF che ha dentro 100 obbligazioni, come se comprassi con i miei 100 euro un euro per ciascuna delle obbligazioni facenti parte dell'indice, ok? La replica sintetica viceversa semplifica un po' il lavoro, se vogliamo, a chi deve gestire questa cosa, perché viene investito il patrimonio del fondo in un paniere sostitutivo cosiddetto, e più un contratto swap con una controparte che restituisce la performance esatta di questo indice. Io capisco che questa è una terminologia del tutto stronza. Sì, il contratto swap con la controparte, veramente ci arrendiamo tutti, proprio come se alziamo le mani. Io vorrei semplificare dicendo questo: dal punto di vista della sicurezza dello strumento non ci sono grandi differenze, perché anche la replica sintetica ha i suoi gradi di sicurezza. Dal punto di vista del risparmiatore, la replica fisica è più trasparente, perché io posso andare sul sito dell'emittente e avere l'elenco di tutte le obbligazioni sottostanti. Quindi da dell'altro punto no? Vista, sì, certo, perché c'è il paniere perfetto, però queste obbligazioni non sono dentro l'ETF, ok? Da un'altra parte. Detta così è un po' un alone di mistero che gettiamo su questo mondo. Adesso mi chiameranno tutte le società che gestiscono ETF a replica sintetica, no, dottor Lupo. Ma l'ho già detto che dal punto di vista della sicurezza non ci sono differenze. Vabbè. Detto questo, insomma, intanto, se foste attratti dall'investimento in ETF, cercate di capire bene la differenza fra le due modalità, appunto replica sintetica o fisica, perché mi pare di capire che ai fini di una corretta, appunto, comprensione sia importante. Sento velocemente una domanda, e poi sì, lo so che è tardi, ma magari per non farli aspettare i nostri ascoltatori, volevo sentire Pierpaolo, perché poverino aspetta da un po'. Siccome è un aspetto che volevamo affrontare, lo faccio anticipare da lui, mi faccio sostituire. Pierpaolo, benvenuto. Buongiorno, complimenti. Volevo far presente questo, più che altro mettere in guardia gli ascoltatori, perché secondo me il mondo degli ETF è un campo minato, nel senso che, primo, non sempre replicano esattamente l'indice di riferimento. Sì, ci sono degli scostamenti, poi spieghiamo perché. Fiscale, sì. Ignobile, nel senso che se io guadagno sull'ETF, le tasse sulle plusvalenze non vengono compensate con le minusvalenze accantonate. Se perdo, le minusvalenze accantonate degli ETF non concorrono comunque a compensare eventuali plusvalenze degli ETF. Quindi dal punto di vista fiscale è una colossale fregatura, ecco, a meno che la mia banca non sbagli tutto. Allora, un campo minato, una fregatura. Pierpaolo ha dato delle, come dire, degli aggettivi al mondo degli ETF che veramente, se mi sentono le società che li costruiscono oggi, veramente vengo pizzicata per le orecchie da tutti, anche perché forse Pierpaolo ha ragione. Adesso mi lancio in questa considerazione e poi vado al traffico. Sono nati degli strumenti come degli strumenti molto semplici, perché all'inizio, oltre 10 anni fa, mi ricordo le prime puntate di Salvadanaio che facevo sugli ETF, replicavano in maniera identica pochi indice, l'indice di Piazza Affari e pochi altri, appunto, su scala europea. Dopodiché sono diventati veramente molto sofisticati, adesso replicano panieri derivati, materie prime, valute, per cui effettivamente comprenderli è un lavoro un po' difficile. Per questo c'è Investire Informati, c'è il nostro Gianni Lupotto, ma soprattutto adesso c'è il traffico. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e denari. Eccola qua la sigla di Rischia Tutto, perché naturalmente è anche tempo del nostro domandone, quello che testa la vostra attenzione stamattina. Esatto, vi abbiamo messo davvero alla prova, perché stiamo parlando di ETF obbligazionari ad alto rendimento, perché secondo il nostro Gianni Lupotto sono investimenti sempre verdi. Capirli naturalmente è un lavoro arduo, però insomma, siccome il mondo della finanza è anche fatto di tutto questo, bisogna che ci impegniamo un po' a capire con che cosa abbiamo a che fare. Allora, detto questo, la domanda per voi oggi è questa. Noi prima abbiamo dato un elenco di ETF quotati sulla borsa italiana, abbiamo detto quanti sono. Sono pochi e il numero era semplicissimo, ve lo ricordate? Sotto 10, dai. L'aiutino. il numero verde per intervenire è sempre lo stesso, 800 24 00 24. No, noi premiamo, regaliamo, apriamo la nostra libreria solo per coloro che rispondono attraverso il numero verde, quindi non scriveteci la risposta con i messaggi, perché non vi possiamo accontentare, possiamo farlo solo con chi chiama direttamente. Allora, dottor Lupotto, da che cosa ripartiamo? Ripartirei dall'osservazione da Pierpaolo. Tassazione, fiscalità non tanto trasparente sull'ETF, si lamenta lui. Più che non trasparente, è vero che la tassazione non è efficiente, perché appunto le eventuali minusvalenze non sono portabili in compensazione. Va anche detto che noi oggi stiamo trattando di un comparto che definiamo evergreen, che quindi si presuppone che venga tenuto in portafoglio abbastanza a lungo da maturare delle plusvalenze. Mm-hmm. E quindi in questo caso la sua fiscalità è neutra, perché è chiaro che quando io maturo delle plusvalenze dovrò pagare la fiscalità del caso come qualunque altro strumento, e quindi da questo punto di vista chiaro. È influente. Sul fatto della replica non tanto fedele rispetto al sottostante, effettivamente anche su questo Pierpaolo ha ragione, perché non è sempre facile, ci sono degli scostamenti, mi hanno spiegato una volta alcuni esperti di questo mercato, dottor Lupotto, perché effettivamente le società che costruiscono un ETF devono comprare direttamente, no, i titoli di Stato, le azioni con cui poi confezionano l'exchange traded fund, e lo devono fare secondo modalità ben precise. Sì, questo comporta questo errore che si chiama tracking error. Esatto, scostamento, chiamiamolo così. Esatto, scostamento. Devo dire che però è uno scostamento che c'è, ma è modesto, diciamo, per quanto riguarda il singolo risparmiatore che tiene nel portafoglio per un certo numero di anni lo strumento, nel senso che può influire sulla performance rispetto al paniere perfetto per qualche centesimo di punto percentuale, certo, all'anno, non di più. Dottor Lupotto, allora, di questi ETF quotati sulla borsa italiana, non ridico il numero perché è l'oggetto del domandone e vedo che già qualcuno si sta candidando a rispondere. Allora, analizzandoli appunto nel dettaglio come lei ha fatto, sono composti appunto diversamente, hanno un profilo di rischio che però più o meno è sempre lo stesso, visto che tutti investono in obbligazioni governative ad alto rendimento, oppure tra di loro cambiano? Da che cosa dipende il profilo di rischio? Sono quasi tutti simili, ce ne sono alcuni che sono un po' meno rischiosi, perché per esempio hanno deciso di limitarsi a obbligazioni a yield di rating, per esempio WB, che è il rating più pregiato. Per esempio c'è una versione di Lyxor che ha questa caratteristica, no? E quindi è un po' meno volatile e magari un po' meno redditizio nel lungo periodo. Anche perché potrebbe dire, no, per esempio io li stavo riguardando, i due che hanno il medesimo paniere, che investono esattamente in 458 obbligazioni ad alto rendimento, siccome sono identici anche nella composizione, uno si potrebbe chiedere perché devo investire in uno piuttosto che nell'altro, se hanno lo stesso numero. Esatto. Da che cosa può dipendere? Dalle commissioni, di sottoscrizione? La differenza è che uno è la distribuzione e l'altro l'accumulazione. E quindi uno distribuisce le cedole e l'altro le reinveste? L'iShares distribuisce cedole e invece il Big Trackers è ad accumulazione, quindi reinveste all'interno. Certo. Quelle che ha citato Lupotto sono le due società che costruiscono questi due ETF, una è iShares e una è Deutsche Bank. Dottor Lupotto, le voci di costo di un ETF di questo tipo quali sono? Quali deve considerare un piccolo risparmiatore? Sì, sono tre. La prima sono le commissioni di gestione interne all'ETF come qualunque fondo. Nel nostro caso sono tra lo 0,35 e lo 0,50 su base annua, quindi relativamente contenute e abbastanza omogenee. La seconda voce di costo è data dal cosiddetto differenziale denaro-lettera, quindi prezzo che è uno spread proprio. Esatto, quindi uno spread denaro-lettera, quando io vado a acquistare o vendere questo titolo in borsa. Anche qui lo spread per i principali ETF è piuttosto contenuto, perché le emittenti si assicurano che sia contenuto per migliorarne l'efficienza, quindi per chi vuol tenere l'ETF in portafoglio per lungo periodo ha poco impatto. L'ultima voce sono le commissioni d'acquisto che applica la banca. Qui io suggerisco di verificare molto bene, perché tra banca e banca, quando si parla di acquisto di ETF, ci possono essere differenze anche molto pronunciate. Esatto, e ci possono essere anche quelle banche che in realtà sconsigliano di investire in ETF, come è successo ad Antonio da Taranto, perché non sono tanto remunerativi questi strumenti per la banca. Antonio, però la sua considerazione ce la può scrivere se vuole a cuoredenari@radio24.it, così come chiedo di fare la stessa cosa a Giuseppe d'Arezzo. Gianni da Torino risponde: quanti ETF obbligazionari ad alto rendimento sono quotati in borsa italiana, Gianni? 7. Ecco, beh, ma anche lui è torinese, quindi Lupotto ha suggerito. Faceva il tifo. Grazie Gianni, grazie. Lupotto, abbiamo detto tutto, vero? Molto velocemente, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, certo. Grazie per la sua collaborazione, come alla sempre. Prossima. Alla prossima lezione di Investire Informati. Noi che si fa? Domani alle 10.30 qui, insieme a Cuore Denari. Buona giornata.